realtà mezza cannetta. Dividiamo, ci risiamo, ti richiamo. Quando capisco qua stasera che facciamo, ritornerò, ma quando mai? E poi qui si fanno le sette sopra un marciapiede. Quando in tasca no, non mi è rimasto niente. Non lo so la gente quale faccia vede. Ma se vuoi superare il limite per una volta, allora basta chiedere. Facciamo questo da quando eravamo ragazzini e stavamo on the corner. Già sapete che accendo questa grossa fra sotto al cappello. Gli dico frate, ma il tramonto quanto è bello. Metti in moto che andiamo a fare un bordello. Con questa faccia qua non potevo fare il modello. Vado oltre, non conosco un'altra maniera. Come qualche fratello che guarda la luna da una galera. Ne fumo tanta la sera, bella come una tarantola nera. Accendo e canto Guantanamera. È una sera come le altre. Dove andiamo non lo so. So che qua tra un po' si parte. Allacciati le scarpe. Poi vieni e fa un giro con noi. Chiama e di che dormi fuori. Poi vieni e fa un giro con noi. Racconta una cazzata e poi dai vieni e fa un giro con noi. Siamo come gli altri, solo un po' diversi. E siamo sempre qua pure se non ci pensi. Con le scarpe nuove e con gli occhi persi. Tanti problemi che non diresti. Frate parliamo coi doppi sensi. Strillo sui pezzi, brillo sui versi. Faccio musica per chi vive nei mondi sommersi. Prendo un po' di compresse perché un po' di complessi. Sparisce tra le stelle in mezzo a polvere e incensi. Poi beve sette cose e si addormenta sui mezzi. E ti fa un sorriso anche se un po' lo disprezzi. Frate, quando sorge il sole loro ancora stanno là. Tra le iene in mezzo all'agora. Tutti fatti come un anno fa. Puoi anche scrivere sui muri che non stanno bene. Dire al mondo che non vanno bene. Però loro almeno stanno insieme, voi invece no. Come quei giorni a ottobre con la felpa. Che esci di casa tardi perché non hai fretta. Fuori c'è lei che aspetta. Dice baby molla tutto il resto. E vieni e fa un giro con noi. Chiama e di che dormi fuori. Poi vieni e fa un giro con noi. Racconta una cazzata e poi dai vieni e fa un giro con noi. Chiama e di che dormi fuori. Poi vieni e fa un giro con noi.